Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Settimana che si apre bene, non solo per le borse, che quindi confermano un'intonazione che dopo lunedì scorso ha preso piede, rialzi anche in America, a Milano più 2% sui due indici, più 2,3% a Parigi, più 1,8% a Francoforte, più 2,70% a Londra, e più 1,3% in America sul Dow Jones. E già questa mattina Tokyo aveva chiuso con un rialzo di circa 2 punti percentuali, e rialzi che poi, al di là di alcuni casi di cui parleremo oggi in maniera specifica, il Banco Popolare, conferenza stampa su Italease, perde il 12%, UbiBanca perde il 5%, Eni cede lo 0,90%, ma insomma tutto il resto è più che positivo. A partire dai bancari, Unicredito più 5,3, Intesa più 5, Unipol più 3,4, Atlantia molto forte più 7,3 come Prismian, il 6,90 lo guadagna Italcementi, il 6,3 anche Buzzi Unicem, di nuovo in rialzo Telecom più 3% e Pirelli più 2,5% e anche la Popolare di Milano più 2%. L'euro è in rafforzamento, è di nuovo vicino a quota 1,30 sul dollaro, 1,2983. E anche nei confronti della sterlina siamo quasi a 93 pence per un euro. Ma dicevo, non c'è solo la borsa e quindi la reazione dei mercati finanziari, ci sono anche dichiarazioni ufficiali. Occorre usare la prudenza, il 2009 sarà un anno molto molto deludente, lo dicono tutti gli istituti ormai sul fronte dell'economia. Sarà l'anno in cui i disastri generati dalla finanza tossica o intossicata si scaricheranno sull'economia reale, e quindi non solo in termini di ordinativi e produzione industriale, ma anche in termini purtroppo di occupazione e disoccupazione. Però è importante capire quello che arriva dalla finanza, perché di solito anticipa i movimenti. E così come la crisi si è verificata, è esplosa prima nel 2008 a livello bancario e borsistico e adesso nel 2009 a livello di economia reale, è immaginabile che se si riprenderà la borsa e i conti delle grandi banche torneranno a essere migliori, poi qualche mese dopo questo si ripercuoterà in maniera positiva anche sull'economia. Ecco perché oggi, a mio avviso, vanno guardate con molta attenzione alcune notizie, che riguardano alcune dichiarazioni del numero uno della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, Ben Bernanke, che dice, insomma, questa crisi finirà nel 2009, abbiamo evitato il rischio di una grande depressione come nel 29. Già la settimana scorsa c'era stata Citigroup che aveva diffuso 2 mesi dell'anno migliori di ogni attesa, e anzi in positivo. Oggi è la volta di Barclays, gruppo bancario inglese, che pure ha subito una fortissima riduzione di valore in borsa e svalutazioni per quasi 10 miliardi, però oggi dice il 2009 è partito bene. Sono tutti segnali, nulla ancora di concreto, ma probabilmente assisteremo a due velocità, quelle dell'economia, che invece continua a diffondere dati più che negativi, e quelle della finanza, ammesso e non concesso che si sia in parte risanata. Anche di questo parleremo, così come di alcune proposte anticrisi che fanno discutere nel nostro paese. Ritorneremo sull'appello lanciato dalla presidente di Confindustria Marcegaglia sabato da Palermo: soldi subito, l'emergenza è vera, non è una buttata mediatica. La polemica sui prefetti servono, visto che a nome dei banchieri ha parlato soprattutto Corrado Passera da Cernobbio, già l'aveva fatto da Palermo, dicendo, insomma, mi sembra un po' eccessiva l'ipotesi dei prefetti per controllare il monitoraggio banche imprese. Poi, dicevo, l'America, gli Stati Uniti, la vicenda Italease, come sempre la borsa. 349-238-6666 per i vostri sms, le altre notizie in breve. Il petrolio, giustamente, ci stava arrivando. Beh, insomma, ha sorpreso un po' tutti, visto che ormai da giorni interi dicevamo che il mercato scontava un taglio della produzione industriale. ha sorpreso un po' tutti vedere che invece i paesi OPEC riuniti ieri a Vienna hanno deciso di non tagliare la produzione di petrolio, e oggi il petrolio cede quasi il 3%, va a $45 al barile. E mentre continua a scendere il tasso interbancario a tre mesi, l'Euribor per la 22esima volta consecutiva all'1,63%, molto forte oggi il 2009 per il gruppo Barclays. Come dicevamo, il gruppo ha annunciato di essere partito nel 2009 in maniera molto forte, con gli affari che continuano ad andare bene. E tra l'altro ha anche informato di avere trattative con il governo britannico per un'eventuale partecipazione al programma di garanzie statali. Barclays, che è la terza banca inglese, ha visto crollare la sua capitalizzazione di borsa da 90 miliardi a 8 miliardi di euro, per cui insomma è ridotta a un decimo, e nel 2008 ha svalutato per circa 9 miliardi di euro come conseguenza di investimenti in prodotti ormai da tutti chiamati tossici. Ciò nonostante è riuscito a chiudere il 2008 con un utile di 5 miliardi. Ci chiede un ascoltatore, insomma siamo già ai tarallucci e vino. No, ragionamento un po' più articolato. I primi segnali, lo ripeto, non vorrei essere franteso, i primi segnali arriveranno se e quando arriveranno dalla finanza e dalle borse, che così come hanno scontato in anticipo la crisi, dovrebbero scontare in anticipo anche la ripresa. Poi da lì al trasferimento sull'economia reale ci vorranno altri mesi, ma l'importante è avere già una luce, o sarebbe già avere una luce in fondo al tunnel. Quindi ecco perché adesso ve le leggo con esattezza, sono importanti le parole del numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke, che ha detto, le potremmo anche ascoltare a questo punto, ha detto abbiamo evitato il rischio di un nuovo 1929, prevediamo che probabilmente la recessione finirà entro il 2009, già questa sarebbe una buona notizia perché abbiamo visto stime di una recessione che si scaricherà anche nel 2010, il tutto di fronte a un dato purtroppo peggiore delle attese sulla produzione americana, che a febbraio ha fatto un meno 1,4%. Ascoltiamo allora il numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke. La lezione che la storia ci insegna è che non si può raggiungere una sostenuta ripresa economica finché il sistema finanziario è in crisi. Abbiamo notato dei progressi sui mercati finanziari, senza dubbio, ma fino a che non vediamo una stabilizzazione completa e un piano funzionamento del sistema finanziario, non assisteremo alla ripresa. Abbiamo un piano, ci stiamo lavorando. Penso che riusciremo a stabilizzare la situazione e che vedremo la fine della recessione probabilmente entro fine anno. Assisteremo alla ripresa all'inizio del prossimo anno, ripresa che accelererà col passare del tempo. Il declino comincerà a moderare il passo, non torneremo alla piena occupazione, ma vedremo, spero, la fine degli importanti fattori critici che hanno pesato così tanto negli ultimi trimestri. Gli elementi chiave rimangono il sistema finanziario e il sistema bancario. Riguardo la disoccupazione, è difficile dire dove stiamo andando. La disoccupazione sta salendo e la perdita di posti di lavoro è molto significativa. E senza dubbio la disoccupazione aumenterà ancora, ma ripeto, penso che se riusciamo a stabilizzare il sistema finanziario, allora vedremo alla fine la possibilità di gettare le basi per la ripresa. Penso che abbiamo evitato il rischio di piombare in una grande depressione, sono convinto che abbiamo già superato quel punto. Ora si tratta di fare funzionare la macchina in modo corretto. Il maggior rischio in questo momento sarebbe quello di non avere la volontà politica di risolvere il problema e lasciare che le cose seguano il loro corso. In questo caso non potremmo contare sul raggiungimento della ripresa. Come sentite, come avete sentito le parole di Ben Bernanke, non è ottimismo, è una previsione che se le cose vanno avanti così la parte virulenta, peggiore della recessione finirà nel 2009 e da lì si potrà dire tranquillamente di aver evitato, cosa che Bernanke già ritiene, il rischio di un nuovo 1929. Non c'è nessun eccesso di ottimismo, infatti non sentite il gallo, nostro simbolo delle buone giornate, e così come però ovviamente oggi neanche sentite il gufo, simbolo e suono delle nostre giornate negative. Anche perché se Ben Bernanke dice che probabilmente nel fine 2009 la recessione sarà terminata, oggi il commissario europeo agli affari economico monetari Joaquín Almunia ha detto: siamo di fronte alla peggiore recessione degli ultimi 70 anni. Non deve sorprendere, a mio avviso, che l'America viaggia a un'altra velocità. In America questa crisi si è scaricata prima, già da metà del 2007 scoppiò la bolla dei mutui subprime. In Europa è arrivata dopo e probabilmente saremo in ritardo anche nella ripresa. Oggi Eurostat calcola 453.000 persone in meno al lavoro, cioè nuovi disoccupati nel quarto trimestre del 2008 in Europa. Il dato è pesante. In America, in Europa, se si guarda all'area a 27, non più a 15, siamo a 672.000 persone che hanno perso il posto di lavoro. E poi c'è la vicenda francese con gli operai della Continental, che dopo aver sequestrato il direttore che vuole procedere con numerosi esuberi e licenziamenti, oggi addirittura sono arrivati a appendere un manichino ai cancelli della fabbrica che si trova a Clairvaux. Ultima notizia prima di iniziare col tema di apertura: Banca Italease da un lato e l'Istat dall'altro. Partiamo dall'Istat: ha confermato che l'inflazione a febbraio è rimasta stabile all'1,6%, dato già diffuso come anticipazione. È aumentata un po' la benzina, più 2,4, cali forti però su base annua, meno 15% la benzina e anche il diesel. Fermi i consumi, i prezzi del pane, di nuovo in aumento quelli della pasta, più 17% su base annua. E Banca Italease ne parleremo. Insomma, il Banco Popolare insieme alla BPR e la BPM, la Popolare di Sondrio, quindi Popolare dell'Emilia Romagna, Popolare di Milano e Popolare di Sondrio, hanno varato un piano di salvataggio per Banca Italease. Lanceranno un'OPA a 1,50 euro per azione per delistare, cioè togliere il titolo dal listino di Piazza Affari. Brutta la reazione oggi sul titolo Popolare Italiana, nel senso che è il peggiore del listino. Il Banco Popolare, scusatemi, Popolare Italiana era quella di Lodi, il Banco Popolare perde adesso il 9,76%. Abbiate pazienza, sarà argomento di questo programma. Dicevo, primo tema, la situazione economica italiana alla luce di quanto emerso anche lo scorso weekend tra Palermo e Cernobbio. Che cosa è emerso? Beh, sono emerse le preoccupazioni della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, le dichiarazioni anche lì preoccupate della Confcommercio da Cernobbio e così il commento un po' scettico, ironico di Corrado Passera sull'utilizzo dei prefetti per monitorare il modo in cui le banche concedono prestiti, crediti alle imprese. Andiamo con ordine. Intanto ringrazio per averci raggiunto in collegamento l'onorevole Matteo Colaninno, che è responsabile nel Partito Democratico per il settore mercato e finanza. Buonasera, onorevole. Buonasera a voi. Anche lei era presente a Palermo al convegno della Confindustria, dichiarazioni che adesso ripercorreremo. Spesso sentiamo giustamente le dichiarazioni del governo e adesso vorrei sentire anche le proposte dell'opposizione. Fermo restando che domani si incontreranno il Presidente del Consiglio con la Presidente di Confindustria, Marcegaglia, per capire come venire incontro alle richieste degli industriali e che poi vi sarà anche un incontro, un tavolo importante con le piccole e medie imprese. Mercoledì dovrebbe essere nostro ospite a quel punto il Ministro Scajola. Andiamo con ordine. La gravità di questa crisi non ha usato mezze parole Emma Marcegaglia sabato, concludendo i lavori della piccola industria di Confindustria. Questo è il momento del linguaggio della verità. Noi rischiamo di perdere nei prossimi mesi i veri campioni del Made in Italy, quelli che hanno fatto grande l'Italia e che devono continuare a fare grande l'Italia. Proprio per questo noi non vogliamo assistere all'ennesimo conflitto tra istituzioni, ma vogliamo vedere la massima collaborazione tra governo, Banca d'Italia, banche e imprese. Adesso servono soldi veri. I denari a sostegno delle imprese devono essere veri, certi e soprattutto devono arrivare subito. Questi due passaggi dell'intervento in cui la Presidente Confindustria aveva anche detto che l'emergenza è vera, non è una boutade mediatica. Oggi, tra l'altro poco fa, un'ora fa, il ministro per le riforme e leader della Lega Nord, Umberto Bossi, ha detto che le piccole e medie imprese vanno aiutate, se non si investe lì chiuderanno un sacco di fabbriche. Restiamo su questo primo tema, onorevole Colaninno, poi arriveremo ai prefetti. Allora, voi avete suggerito un insieme di iniziative, ma in questo momento i prefetti potranno anche non andare bene, ma mi sembra che il problema principale sia, oltre che far arrivare alcuni soldi sul fronte ammortizzatori sociali, sia monitorare quello che è il flusso finanziario banche e imprese, quindi da qualche parte bisognerà prenderlo questo toro, onorevole. Ma certamente il rischio delle imprese è duplice: per crollo di domanda sarà amplificato dal fatto che nel mondo c'è una capacità produttiva installata enorme, enormemente superiore rispetto alla stessa domanda, e quindi in un periodo di crisi questo fatto è estremamente preoccupante e grave, unito al fatto che oggi le imprese soffrono nella loro dinamica finanziaria, cioè il controllo del capitale circolante delle imprese è una impresa nell'impresa. Assistiamo a dilatazione dei tempi di pagamento, ai magazzini e alle scorte che stanno andando alle stelle, la restrizione del credito. Quindi il rischio è che sommiamo due fattori di rischio estremamente preoccupanti: vendite e dinamica finanziaria, e non vi è dubbio che le preoccupazioni siano a questo punto estreme. Quindi non era il fatto di essere catastrofisti o ottimisti, sono divisioni che non hanno, come dire, portato ad alcunché, e quindi è evidente che seppur risorse rispettabili sono quelle che hanno messo in campo in questi mesi il governo e i ministri, ma sono risorse gravemente insufficienti rispetto alla portata della crisi. Onorevole Colaninno, poi arriveremo anche a quello che lei testimonia e può vedere come industriale, visto che la Piaggio ha anche stabilimenti importanti in Vietnam e in India, forse anche in Cina, vado a memoria. Ma la proposta che è arrivata dal PD ha fatto molto discutere, mi riferisco a quella dell'assegno di per chi perde il lavoro, soprattutto quelli non coperti dalla cassa integrazione, perché si è detto, insomma, la copertura finanziaria era un po' debole. Dire che i soldi vanno trovati con la lotta all'evasione è dire tutto e niente. Forse è quello l'elemento più debole della vostra proposta? Ma anzitutto la nostra proposta è complessa e articolata, che riguarda certamente il dramma di quelle persone che perderanno il posto di lavoro, che non è solo, diciamo, un dramma personale di quelle persone, che già è sufficiente per dimostrare la gravità, ma è anche un problema di tenuta sociale e democratica del paese, nel senso che se l'America riparte, come abbiamo sentito dal cautissimo ottimismo del Presidente della Banca Centrale, siamo tutti più contenti e, come dire, e cominceremo a sorridere fra un anno. Ma se questo non avverrà, noi rischiamo di perdere centinaia di migliaia, se non milioni di posti di lavoro, e quindi non si può scherzare. L'assegno proposto da Franceschini significa questo, significa mettere direttamente nelle tasche di coloro che perdono il posto di lavoro e che non vengono aiutati dagli ammortizzatori sociali, che ricordo non coprono tutte le situazioni di impresa, ma soprattutto le microimprese sono esenti da questo, ed è evidente che è una priorità delle priorità. Lo Stato deve trovare i soldi, seppur in un quadro di finanza pubblica complesso, cui tutti noi siamo consapevoli, ma è proprio nelle situazioni più difficili e più complicate che la politica deve tirare fuori la propria ambizione, seppur nelle difficoltà. Io non ho problemi a dirlo, le risorse possono trovare certamente facendo uno sforzo, cioè la maggioranza non deve rimanere prigioniera dei suoi numeri e della sua autosufficienza e deve cambiare atteggiamento nei confronti dell'opposizione. Questo è, diciamo, il mio pensiero. Dopodiché noi abbiamo presentato e presenteremo nei prossimi giorni anche dei provvedimenti per l'impresa. Ne ho annunciato una parte a Palermo di fronte ai piccoli imprenditori di Confindustria. E diciamo anche lì le priorità partono dal credito, cioè le imprese piccole hanno bisogno di rinegoziare le scadenze di indebitamento, quindi di prolungarlo da scadenze di breve, di brevissimo, almeno a medio lungo, per passare, diciamo, a provvedimenti che controgarantiscano e che quindi che mettano le banche nelle condizioni di ampliare il flusso di credito, anche perché tra parentesi le banche operano in un regime con regole molto ferree, da Basilea 2 agli stessi principi contabili internazionali che hanno portato e porteranno delle pesanti svalutazioni negli attivi delle stesse banche. Quindi ci troviamo di fronte a un quadro complesso rispetto al quale come opposizione abbiamo proposto un articolato di contromisure che noi vogliamo che il governo prenda in considerazione in maniera molto seria e non con un atteggiamento di sufficienza come ci è parso di vedere fino ad oggi. Sì, voi avete proposto da Palermo anche l'ipotesi di dedurre fiscalmente gli oneri finanziari non più fino al 30%, che è il tetto massimo adesso, ma di arrivare fino... operativo lordo. Questo è un emendamento che ho proposto. Oggi gli imprenditori vanno contro purtroppo a un maggiore indebitamento ed è evidente che dobbiamo aumentare la soglia di deducibilità degli interessi passivi, che non sono altro che, diciamo, un costo deducibile come qualsiasi altro tipo di servizio. Allora, è interessante anche, lei ha detto di portarlo dal 30 al 50%, adesso, se ho ben capito, anche tornerete sul tema della rinegoziazione del debito con le banche, per cui uno dice, guarda, invece che, adesso la banalizzo un po', invece che datere in 2 anni te lo ridò, te lo scaglioni in 5 anni, questo non cambierebbe la situazione per le banche, perché i soldi verrebbero garantiti, cambierebbe di molto la situazione per le piccole, soprattutto le medie imprese, perché permetterebbe di respirare, diciamo, almeno fino al 2010. L'altro grande tema, poi arriverò alla sua testimonianza come imprenditore, riguarda invece l'utilizzo di chi? Dei prefetti. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere il nostro approfondimento dedicato alle misure per le imprese, per le piccole e medie imprese. Vi ricordo che abbiamo aperto con delle dichiarazioni per la prima volta cautamente ottimiste del numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke, che lo avete sentito, ha detto: le nostre previsioni sono che questa crisi finisca, che la recessione in America finisca nel 2009 e avremo così evitato un'altra crisi del 29. Le borse vanno bene, adesso ne parleremo, il 2,5% di chiusura in rialzo per Milano, il 3,20 a Parigi, guadagna l'1,7 l'America, ma i dati economici e macroeconomici restano tutti negativi. Vorrei farvi sentire, e vi ricordo che in collegamento c'è il responsabile per l'economia e la finanza del PD, onorevole Matteo Colaninno, visto che alcuni dicono ma troppo ottimisti oggi, no, non siamo troppo ottimisti, ma volete un'iniezione di cautela, ebbene oggi la CGIL, per voce del centro, del suo centro studi, ha stimato in 500.000 disoccupati i nuovi disoccupati nel 2009, cioè quindi 500.000 di disoccupati in più, 1 milione nei prossimi 3 anni, con il tasso di disoccupazione che va al 10,1% nel 2010. E secondo il centro studi della CGIL, il nostro PIL quest'anno calerà più del 3% e non del 2% come previsto dal centro studi Confindustria, o 2,5%, e anche dalla Banca d'Italia. Sentiamo responsabile, il presidente di IRES CGIL, Agostino Megale. Noi abbiamo indicato che vi sono delle esigenze da affrontare: dare un'indennità ai precari che non hanno niente e rivalutare chi è in cassa integrazione almeno per un 20% del reddito. Abbiamo immaginato che questa prima operazione possa costare attorno al 1,5 miliardi e abbiamo indicato dove reperire il 1,5 miliardi tassando per i prossimi 2 anni i redditi oltre 150.000 euro con un 5% in più e in questi 2 anni far la riforma per dare a tutti le tutele. Il mondo del lavoro a termine, su cui puntava molto questo esecutivo, sembra il più penalizzato, c'è una ragione? C'è la ragione che abbiamo posto da tempo e che non si può immaginare che il lavoro confonda la flessibilità con la precarietà. Quando arriva la crisi, questi più debili pagano più degli altri ed è per questa ragione che il governo non può pensare di affrontare la questione con la propaganda, ma servono soldi veri e noi li indichiamo per darli alle persone che ne hanno bisogno e noi li indichiamo. Questa è la proposta quindi della CGIL del tema assegno di disoccupazione. Abbiamo poc'anzi parlato con Matteo Colaninno, c'è un altro tema, a mio avviso, molto delicato. Intanto vorrei capire se la proposta della CGIL di portare a questo punto a 150.000 il tetto per la tassazione, ma con un 5%, vi sembra troppo dura, onorevole Colaninno, rispetto alla vostra che era 120.000 euro, se non ricordo male, però con un 2% in più. Poi arriviamo alle banche e alle imprese. Ma guardi, io non voglio in questo momento entrare in un'analisi analitica di questa proposta, rimango a quello che ho sempre detto fino a questo momento, e cioè che non ho assolutamente nulla in contrario, anzi posso essere assolutamente favorevole in meccanismi fiscali di solidarietà nei momenti di picco di crisi, ecco, con un vincolo che per me è essenziale, e cioè che si faccia davvero una lotta all'evasione fiscale pesante e dura, perché non ha senso che poi alla fine a pagare siano sempre coloro che le tasse le hanno sempre pagate, che si fanno carico anche di coloro che non lo fanno. Quindi posto questo vincolo non vedo nessun problema nel procedere con dei meccanismi di solidarietà fiscale, di là delle aliquote. Qui entriamo in tecnicismi, certo, che lasciamo ai tecnici, che decideranno, sì, poi volta per volta, quando nelle sedi istituzionali più corrette. Sappiamo tutti che il problema dell'evasione fiscale, tra l'altro, che fa saltare anche qualunque meccanismo di tassazione sui più ricchi, diciamola così, perché poi chi guadagna più di 120.000 euro spesso sono manager o dirigenti che però pagano già tutte le tasse, va benissimo, però insomma le pagano tutte perché sono dipendenti, di fatto hanno anche loro, sono dipendenti da un'impresa o dal settore pubblico. C'è chi guadagna cifre anche superiori, ma risultano cifre molto inferiori, io penso, senza volersela prendere con nessuna categoria, ai dati pubblicati anche dal Sole 24 Ore: gioiellieri 18.000 euro lordi l'anno, i dentisti, così sarà, insomma, così sarebbero in due. Basta un numero che è stato dato, tra l'altro, da una fonte ufficiale, cioè dalle entrate: 200 miliardi di euro di evasione. Insomma, 200 miliardi di euro sono più o meno 400.000 miliardi di lire, quindi quante finanziarie sono, quanta solidarietà si può mettere in movimento? È ovvio che parliamo poi di un'area di potenziale, certo, molto ridotta e molto ristretta rispetto a questi ordini di grandezza, però sono sempre numeri importanti. Visto, onorevole Colaninno, visto che lei appunto è responsabile per il PD della parte economia e finanza, voi siete molto scettici sull'utilizzo dei prefetti. Allora ascoltiamo cosa ha detto Corrado Passera a Cernobbio. Però che le banche possono essere scettiche ci può stare. Io vorrei capire che cosa proponete in alternativa, perché sarà anche un po' grezza l'idea del prefetto, delle prefetture, il prefetto che raccoglie i dati, le denunce degli imprenditori e poi informa con un report l'Osservatorio Nazionale sul Credito costituito presso il Tesoro, cioè un po' forse farraginosa, ma il segnale è, attenzione, il credito bancario, le imprese, è una cosa troppo seria per essere lasciato solo in mano alle banche. Sentiamo Corrado Passer e poi la vostra proposta. L'idea che l'amministrazione e magari attraverso l'amministrazione e la politica entri nella tematica dell'erogazione del credito non è un qualche cosa di cui si sente il bisogno. Poi facciamo pure osservatori, facciamo tutto quello che vogliamo e tutte le informazioni che saranno necessarie verranno date, però a me sembra una non buona idea. Così il numero uno di Intesa San Paolo al microfono della nostra Anna Marino. Lei li ha definiti addirittura i prefetti una vera follia. Perché e cosa proponete in alternativa? Leggo l'ansa di... Io non ho definito i prefetti una follia, ci mancherebbe altro. No, non i prefetti. L'utilizzo dei prefetti. Grande rispetto di questa istituzione così rilevante che sono i prefetti. Ma voglio dire, basterebbe che qualcuno andasse a vedere come si produce in una banca, in una qualsiasi banca, un'istruttoria di fido. Quali meccanismi, quali procedure, quali software, quante risorse sono impiegate. Si tratta di analisi di bilancio, di quozienti, di flussi di cassa scontati, di rapporti con l'imprenditore. Ora, scaricare tutto questo sugli illustri prefetti italiani penso che sia un esercizio totalmente retorico, per essere gentile come il dottor Passera, ma credo che sia una proposta assolutamente irricevibile e che rischia di mettere sulle prefetture una responsabilità che non non ha alcun senso produrre. La nostra proposta è molto semplice, nel senso che se il sistema bancario e finanziario italiano ha mostrato una capacità di forza e di resistenza superiore, nettamente diverso ad esempio da quello delle merchant bank americane, lo è per due ragioni. La prima è che, a mio avviso, la vigilanza della Banca Centrale Italiana ha perfettamente funzionato, ha funzionato bene, al di là degli errori che tutti possono commettere, ma mediamente ha funzionato. Io sono stato amministratore di banca per qualche anno e so qual è l'importanza e come sentivamo l'autorità della Banca d'Italia e della sua vigilanza e con quale competenza ha sempre agito, ha sempre capito le pieghe dei bilanci, ha sempre compiuto tutte le analisi sull'economia anche sul territorio. E quindi la vigilanza, se c'è necessità in questo momento di estendere ulteriori competenze e facoltà, lo si dia alla Banca d'Italia, che è uno degli istituti più prestigiosi che l'Italia possa avere. Insomma, adesso ripeto, basti rivolgersi a qualsiasi istituto di credito e fare minimamente una checklist di cosa significa fare un'istruttoria di fido, e la vogliamo dare ai prefetti. Insomma, non scherziamo. Sì, lei diceva anche ai prefetti: diamo il compito di far restituire, di far dare all'amministrazione pubblica i 70 miliardi di euro che lo Stato deve ancora alle imprese. Già questa sarebbe una somma enorme. Sono servizi che le imprese hanno già reso, crediti che lo Stato ci mette qualche anno a pagare. Ma questo, voglio dire, è uno dei temi che entra anche nel grande problema della liquidità delle imprese. Stiamo parlando, questo è il centro studi di Confindustria che parla, non sono io, di 70 miliardi di euro di crediti che il sistema imprese italiano vanno dalla pubblica amministrazione, quella più estesa, quindi dallo Stato alle ASL, a tutto quanto, e che quindi già incide sull'indebitamento. Però, un attimo, che ho un problema di linea. Mi sente? No, abbiamo un problema di collegamento con aspetti, forse ho ripreso. Onorevole Colanino, mi sente? Pronto, io ecco, sì, stavo concludendo il ragionamento, che già incide, dicevo, questi 70 miliardi. Già queste poste sono nel passivo della finanza pubblica italiana, cioè non è nuovo indebitamento, certo. È un problema finanziario, tra l'altro attraverso anche meccanismi della Cassa Depositi e Prestiti e con scadenze nel tempo, quindi non tutte subito, sono immediatamente da rimettere in ciclo per favorire... Sì, questa è una cosa abbastanza assurda, perché appunto, come lei ricordava, questi 70 miliardi lo Stato li ha già calcolati nelle uscite, per cui non andrebbero a peggiorare il nostro deficit come numeri per Bruxelles e per le agenzie di rating. E sarebbero una bella boccata d'ossigeno per molte imprese. In una battuta, visto che lei è anche vicepresidente del gruppo Piaggio, voi avete stabilimenti non solo in Italia, chiaramente, ma anche in Vietnam, India. Lei è appena tornato da un viaggio di lavoro in Asia. La crisi morde anche lì, da quello che voi vedete, perché voi vendete poi le due ruote agli indiani e anche ai cinesi e vietnamiti, oppure tiene un po' di più? No, per la verità io sono appena tornato da Palermo al convegno. No, è quello sì, quello abbiamo letto. Non ho fatto nessun viaggio in Asia. No, quello l'abbiamo visto. Quello che le posso dire, anche perché io rimasto poi nel mio profilo istituzionale di parlamentare, certo, e quindi a quello mi attengo. Il mercato delle due ruote, così come quello delle quattro, purtroppo sta risentendo pesantemente degli effetti della crisi economica finanziaria. Certamente le imprese, come ad esempio Piaggio, che hanno una forte presenza internazionale, hanno anche delle opportunità in più, ma questa è una crisi che sta investendo il mondo e che vede nell'Asia, nella Cina, nell'India, nel Vietnam, tutto in quell'area, comunque un grande polmone. Qualche giorno fa il primo ministro della Cina, Wang Jiabao, ha annunciato una previsione per l'anno prossimo di una crescita intorno all'8%, quindi a differenza dell'interpretazione del ministro Tremonti, io credo che quei mercati possano oggi rappresentare una salvezza per l'intera economia mondiale, se non altro rimanendo in finanza per il fatto che hanno sottoscritto quasi 800 miliardi di dollari di debito pubblico americano. Ecco, questo, non dimentichiamocelo, Hillary Clinton ha ringraziato anche recentemente il presidente della Cina per questo. Sì, il 30% circa dei bot americani, dei T-bond, è in mano cinese. Grazie allora al responsabile della parte economia e finanza del PD, Colaninno. We'll be right back. nuovo in diretta. Allora alcune dichiarazioni negli SMS, poi passiamo alla borsa. Qualcuno di voi dice: ma insomma, Bernanke lo prendete troppo sul serio, già sbagliato nel 2007? Sì e no, voglio dire, se il presidente della Banca Centrale Americana, che è la prima banca centrale al mondo, dice che la recessione sarà finita nel 2009 e si è evitata la crisi del 29, a me sembra una notizia, per quel poco che ci capisco. E poi l'abbiamo presa con tutto il beneficio del dubbio. Ancora, alcuni di voi la buttano in politica, ma abbiate pazienza, ma insomma, ascoltiamo tutti i giorni correttamente, perché noi da sempre, da quando esiste questo programma, diamo più spazio per un semplice motivo al governo, perché è quello che ha il potere esecutivo e prende le decisioni, sia di centrodestra che di centrosinistra. Ogni tanto ascoltare anche l'articolazione delle proposte dell'opposizione non mi sembra, diciamo, far venire meno l'idea di un dibattito. Anzi, ripeto, domani vi sarà ampio spazio all'incontro tra il presidente Berlusconi e la presidente Confindustria Marcegaglia, mercoledì con il ministro Scajola. Non abbiate dubbi su questo. Ancora sulle banche, ma il problema non è essere troppo morbidi con le banche. Io non penso che si possa accusare questo programma obiettivamente di essere troppo morbidi con le banche. Il problema è capire se i prefetti, al di là del messaggio politicamente forte, poi operativamente serviranno a controllare il flusso di credito, cioè se vi sarà una fila di imprenditori che va in prefettura a denunciare questa cosa qui, oppure la misura è sostanzialmente politica, di moral suasion, ma non operativa, che a quel punto bisognerebbe cercare delle misure ancora più operative per controllare che cosa succede tra banche e imprese. Le borse, dicevo, inizia bene la settimana e si veniva da una settimana più che buona. S&P MIB più 2,5%, MIBTEL più 2,3%, Parigi più 3,20%, Francoforte più 2,30%, Londra più 3%, l'America guadagna l'1,90% in questo momento. Euro sopra quota 1,30 nei confronti del dollaro. Pazienza abbiate con Banca Popolare e Italease, perché sarà l'approfondimento alle 18:15 del programma. Il Banco Popolare comunque è il peggior titolo oggi tra quelli più grossi, ha perso il 10,1%, Ubibanca il 5,7%. Molto bene invece Italcementi più 8,5%, Prismian più 8,2%, Seat più 7,60%, 7,5% l'ha guadagnato Atlantia, il 7,2% Buzzi Unicem, il 6,5% è il rialzo di Mondadori e il 5,90 anche quello di Unicredito, che a questo punto si riporta quasi a un euro operazione, la scesa a 78 centesimi, 96 centesimi e 6. Intesa si riporta vicino all'euro 80, guadagna il 5,21, Alleanza più 4,40, Geox più 4, Unipol più 3,90, Telecom più 3,80, torna sopra i 90 centesimi per azione. Enel più 3,6, Terna più 3,2 come Generali, A2A più 3,1%, il 3% è anche il rialzo di ST Microelectronics, Pirelli, Finmeccanica e Tenaris, bene anche Autogrill più 2,80, l'Espresso e Fondiaria più 2,30%. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Lasciamo stare Banca Popolare Italease, ne parliamo dopo, hanno annunciato l'OPA. Il Banco Popolare, ma Unicredito Intesa? Sì, guarda, oggi c'è stata un'attenzione su tutto il sistema bancario, non solo italiano ma addirittura europeo. Il sottoindice Stoxx 600 in Europa è stato il migliore, ha guadagnato il 5,5%. Ovviamente si sono impennati anche i titoli italiani, soprattutto quelli che avevano perso più terreno, Unicredit in primis, come hai detto tu, era sceso molto rispetto agli attuali livelli. In aggiunta si può dire che oggi a riaccendere un po' i riflettori anche sul comparto è stato uno studio ottimista emesso da Nomura, dove la banca nipponica ha detto che c'è del valore appunto in tutti quelli che sono i titoli bancari italiani. Nonostante ovviamente fino al 2012 è vero sì che le banche continueranno a soffrire, a registrare una redditività che continuerà probabilmente appunto a soffrire fino al 2012, però appunto ha lanciato questo segnale di ottimismo che è stato subito recepito dal mercato. Vabbè, poi vedremo anche se io sui report Nomura, non Nomura, resto molto scettico, ma va bene finché danno un buon segnale al mercato. Invece oggi nettamente in recupero tutto il settore delle costruzioni. Ora, siccome il settore delle costruzioni non è un settore che così si può cambiare orientamento da un giorno all'altro, che è successo? Perché i tracciamenti è tra le più forti, anzi ha chiuso, è la più forte, ma anche Buzzi Unicem. Sì, assolutamente sì, sono messe in evidenza sin da questa mattina, soprattutto i talcementi. Ovviamente si è andati ad acquistare soprattutto i titoli che hanno perso di più, ma anche i titoli più legati al ciclo, dopo le parole di Bernanke, che ha detto che la recessione dovrebbe terminare quest'anno per dare spazio alla ripresa nel 2010. Ovviamente i titoli delle costruzioni sono quelli più legati al ciclo e peraltro oggi hanno beneficiato comunque anche del ribasso del prezzo del petrolio innescato dalla decisione dell'OPEC di non ridurre la produzione petrolifera. Decisione sì, che ha portato in basso di oltre un dollaro il prezzo del petrolio. Esatto. Allora, apprezzo l'ironia di chi scrive: ma Fiat è stata delistata, perché non l'ho letta, no, non l'hanno levata dal listino. E va bene, anche Fiat più 1,96%, più 1,28% oggi a 4,34 euro, e aggiungo anche a questo punto il Monte dei Paschi più 0,7%. Seat pagine gialle più 7,60, 4,11 euro, ha recuperato oltre il 20% dal livello più basso del 9 marzo. Sì, dal 9 marzo infatti ha fatto una buona performance. È vero sì che, ricordiamo, dal 9 febbraio al 9 marzo aveva perso oltre il 70% del proprio valore, quindi si tratta di un recupero che è innescato anche dal fatto che si dovrebbe essere in Consob alle battute finali per dare il via libera all'aumento di capitale da 200 milioni di euro, che dovrebbe partire quindi in tempi abbastanza ristretti e dovrebbe essere una vera e propria boccata d'ossigeno per le finanze della società. :18:10, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, dopo aver dedicato la prima parte del programma alle dichiarazioni, lo ripeto, cautamente ottimistiche del presidente della Federal Reserve americana e quindi numero uno Ben Bernanke, che nel 2009 dovrebbe, il 2009 dovrebbe rappresentare la fine della recessione, e aver raccontato anche le proposte che sono arrivate dagli industriali e dal PD, per voce di Matteo Colonnino, lo scetticismo delle banche di fronte ai prefetti. Stavamo concludendo l'approfondimento di borsa, buona anche oggi la giornata e quindi buono l'avvio di settimana. Mancavano tra i titoli Leonora Micheli, le Pirelli, dopo la dichiarazione di Marco Tronchetti Provera, che ha detto prevediamo un 2009 inutile. Sì, inutile, mi raccomando. Sì, infatti in un 2009 inutile, questo ha dato il là ovviamente agli acquisti su Pirelli, e poi peraltro Pirelli comunque risulta sempre una società ciclica e come tutte le società cicliche oggi è andata bene, è stata ben acquistata. Questo per quello che ha a che fare con le Pirelli. Altri titoli che oggi hanno bene si sono comportati si chiamano assicurativi: Generali più 3,20%, Alleanza più 4,40%. Se potessimo chiudere con gli assicurativi e con Telecom Italia, che ha guadagnato anche oggi in borsa il 3,80%. Sì, guarda, gli assicurativi, come hai detto tu, diciamo che si tratta di un andamento corale, anche in Europa sono cresciuti in media del 3,15%, il sottoindice Stoxx 600 ha registrato tale performance. Quanto a Telecom Italia, anch'essa continua la strada del recupero, innescata peraltro anche da una revisione al rialzo del giudizio da parte degli analisti di Chevret, che hanno espresso appunto che fino alle scorse settimane erano abbastanza critici nei confronti della compagnia telefonica, mentre invece sembra si siano ricreduti e abbiano espresso un giudizio positivo. In una battuta, perché al di là del Banco Popolare di cui parleremo adesso anche UbiBanca perde un 5,7%? Guarda, per due due motivi. In primis perché sono ricircolate le voci che UBI possa aggregarsi con Banco Popolare, poiché appunto gli analisti e i trader ritengono che il Banco Popolare da solo non possa sostenere l'acquisizione di Italease, e quindi sono di nuovo circolate le voci, che peraltro erano circolate nei mesi passati, di un'aggregazione con UBI che potrebbe aiutare appunto poi il deal a tre, anche se va detto che lo stesso Saviotti nel corso della conferenza di presentazione dell'operazione ha smentito qualsiasi operazione di aggregazione con altri istituti. E poi comunque c'è anche un report di Nomura nel quale si ipotizza che UBI possa effettuare delle svalutazioni, e quindi ha puntato un po' l'indice sui bilanci dell'istituto, sebbene va detto che gli analisti di Nomura abbiano espresso un giudizio molto positivo su UBI, è l'unica banca su cui hanno espresso peraltro un giudizio positivo. Grazie onorevole Michele, Radio Cori, Sole 24 Ore. Adesso la vicenda Banco Popolare, perché da un lato il Banco Popolare ha perso il 10,1%, dall'altro invece Italease, ossia il titolo che verrà poi delistato con un'offerta pubblica a 1,50 euro, ha chiuso a 1,46 euro, ossia più 11%. L'OPA infatti porterà, l'offerta pubblica porterà poi a ritirare il titolo dal listino. Una vicenda che si trascina da un anno e mezzo, vado a memoria almeno, e ne parliamo subito anche con le voci dei protagonisti. 349-238-6666 per i vostri sms. Ne parliamo subito perché oggi è stata in conferenza stampa illustrata l'intera operazione. Allora, con noi Alberto Grassani del Sole 24 Ore. Alberto, buonasera innanzitutto. Buonasera. Per chi, diciamo, si fosse appena messo in collegamento, nel senso che avesse perso alcune puntate di questa vicenda, Italease era, è un istituto specializzato nel leasing, negli strumenti di copertura dei rischi. A fronte di una capitalizzazione, ma poi già è stata salvata una volta, insomma, a fronte di una capitalizzazione di 185 milioni di euro, ha quasi 8 miliardi di debiti verso le banche. Chi sono i suoi azionisti? Il Banco Popolare, ex Popolare di Verona Novara, ne ha il 30%, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna ne ha quasi il 7%, il Banco Popolare di Sondrio ha quasi il 4%, e poi Monte dei Paschi al 3,5%, la Popolare di Milano quasi il 2%, e anche la Reale Mutua Assicurazione al 6%. Alberto Grassani, adesso sentiremo le dichiarazioni di Saviotti sull'operazione, ma il bubbone che portò anche a una vicenda giudiziaria con una condanna dell'ex numero uno Faenza, che cosa ha generato? Cioè, perché si arriva a parlare di Banca Italease come il vero tallone di Achille del gruppo Banco Popolare? Ma è solo una precisazione, Faenza non è ancora stato condannato, è stato arrestato. È stato arrestato e presto verrà deciso il rinvio a giudizio. Però quello che è successo in questo anno e mezzo sostanzialmente è che una banca che è arrivata con una grandissima esposizione sul settore immobiliare, con perdite importanti nel settore dei derivati, ha concluso questo ciclo di dissesto nella fase più acuta della crisi dei mercati internazionali. Oggi quello che si nota guardando Piazza Affari è che, al di là della ripresa del titolo, che tutto sommato è modesta rispetto ai valori storici di Banca Italease, i CDS, cioè le scommesse sui derivati del credito del gruppo, sono tornati a 900 punti base, partendo da 13.000, il che significa che nella sostanza fino a venerdì la banca veniva data quasi fallita. Oggi la situazione si sta avviando verso quella che non è una situazione di un emittente veramente stabile, però di quasi normalità, insomma. Quello che è evidente sul mercato è che la banca è stata salvata. Adesso verrà tolta dal listino. Ci sono nell'istituto oltre 3,7 miliardi di euro di crediti problematici, cioè la banca ha un'esposizione a un rischio creditizio molto elevata. Il banco in parte si farà carico di questi crediti con una percentuale importante di quella che sarà la bad bank e si farà carico di tutte le obbligazioni che ci sono sul mercato. Uno degli aspetti più importanti di questa vicenda di salvataggio sono 8 miliardi di bond che sono stati collocati presso gli investitori privati e che sono nel portafoglio proprio delle famiglie italiane. Bene, questi bond che sono adesso come sul mercato con l'emittente Italease verranno garantite dal Banco Popolare a partire dalle prossime settimane, quando la società verrà tolta dal listino. Eh sì, perché questa vicenda riguarda da vicino anche gli imprenditori per due motivi. Intanto Italease si occupava di fare leasing, di assicurare dal rischio, e quindi operava più spesso con imprenditori, con soggetti anche giuridici, che non solo con i privati cittadini. Ma insomma, tu ricordavi che è vero che Italease ha 3 miliardi e mezzo, 3 miliardi e 7 di crediti difficilmente esigibili, per cui ha prestiti soldi a soggetti che in questo momento hanno difficoltà a restituirli o li ha prestiti male, ma è anche vero che ha collocato agli stessi imprenditori molte volte, ma non solo, 8 miliardi di obbligazioni, che se tu non salvavi la banca queste obbligazioni andavano in default e quindi non venivano ripagate a chi le aveva sottoscritte. Per dare un'idea, poi passiamo alle informazioni per chi è in viaggio, poi ascoltiamo le varie dichiarazioni del tracollo più che crollo di Italease. Pensate che ancora a metà del 2007 valeva 20 euro il titolo, che era arrivato nel 2006 a 50 euro, adesso ne vale 1,3, per cui è passato da 20 euro o 15 euro, diciamo, a fine 2007, in un anno e tre mesi, a 1 euro. Questo dà l'idea di cosa è successo alla banca e al titolo. Di nuovo in diretta, allora, Alessandro Graziani, Grassani, Alberto, per quello che riguarda l'operazione nel dettaglio, avendo spiegato quello che è in realtà il pregresso della vicenda di Italease, oggi tre istituti, a partire dalla Popolare, perché è quella che ha il 30%, dal Banco Popolare, ma anche con la Sondrio, l'Emilia Romagna, come ricordavamo, hanno annunciato il salvataggio di Italease. Come avverrà questa operazione? Dunque, questa operazione avverrà con un'offerta pubblica agli azionisti per 1,5 euro per togliere dal listino la società, che verrà divisa poi dopo in tre parti. Una è la vecchia Italease, quella che voi vedete oggi quotata a Piazza Affari, che verrà acquisita interamente dal Banco Popolare. Le altre due società sono una bad bank, in cui finiscono tutti i non performing loan, cioè tutti i crediti di cui abbiamo parlato prima, che possono arrivare fino a 5 miliardi di euro secondo le stime del Banco Popolare, e che hanno in qualche misura degli incagli o delle sofferenze. Questa società sarà controllata all'80% dal Banco Popolare e per il resto dalle altre banche del patto di sindacato. Quindi avremo una terza società che non ha ancora un nome, ma che sarà una società di leasing come l'attuale Italease, in cui verranno scorporate una parte delle attività attualmente gestite da Italease. Sarà una società di leasing più piccola, con 5,9 miliardi di asset, e questa società sarà, avrà come azionista di maggioranza la BPER. Poi ci sarà una quota importante ancora del Banco Popolare che seguirà la BPR, e quindi la BPM e il Banco Popolare di Sondrio. Insomma, dall'attuale Italease verranno create tre società con azionariato differente, che garantiranno agli attuali obbligazionisti il pagamento delle cedole e del capitale, e almeno il Banco Popolare garantirà, ha già un piano per garantire questi pagamenti, e garantiranno a tutti gli stakeholder un proseguo di quelle attività che oggi vengono svolte da una banca che non ha più i requisiti patrimoniali per restare autonoma. E giustamente alcuni ascoltatori fanno notare che la Banca Popolare ha collocato anche la clientela molte polizze con sottostanti obbligazioni Italease, quindi deve garantire, doveva in qualche modo intervenire, oltre che per il fatto che era l'azionista di maggioranza. Allora, sì, una volta che sono garantite le obbligazioni, poi sono garantiti anche tutti i prodotti che sono stati strutturati, che ha venduto quelle come Banco Popolare a quel punto. Allora, sentiamo il consigliere delegato del Banco Popolare, Pierfrancesco Saviotti, illustrare la tempistica di questo piano di salvataggio. La situazione che si concretizzerà nel momento in cui l'OPA sarà chiusa, è ragionevole ritenere che ci vorrà qualche mese, pensiamo che si possa arrivare alla fine di giugno e pensiamo che tutte queste operazioni di conferimento e o di scissione potranno concretizzarsi e finire tra, penso, ottobre e novembre, comunque necessariamente prima della fine dell'anno. E sempre Pierfrancesco Saviotti ha anche chiarito, visto che tu citavamo anche durante i mercati finanziari l'ipotesi di un'aggregazione UbiBanca Popolare, Banca Popolare, che non è venuto al Banco Popolare per fare il traghettatore, non ci sono pertanto ipotesi per fare aggregazioni con altri istituti. Ha detto che il Banco Popolare avrebbe fatto ricorso ai Tremonti Bond, è stato infatti il primo istituto a chiedere, a prenotare questi Tremonti Bond, 1,6 miliardi, vado a memoria, per quello che riguarda 1,45 miliardi, mi fa notare giustamente Alberto. Gli avrebbe chiesti anche senza Banca Italease, anche senza la vicenda Banca Italease. Per quello che riguarda poi il costo dell'operazione e l'aumento di capitale che a questo punto vi sarà, sentiamo sempre Saviotti in conferenza stampa. La certezza è che faremo 179 milioni di cassa per l'OPA, se avrà successo al 100%, che faremo un aumento di capitale nella NewCo 1, che faremo un aumento di capitale nella NewCo 2, se l'aumento di capitale previsto in ognuna di queste società è tra i 300 e i 400 milioni, totale vuol dire che se è tra i 300 milioni, nella NewCo 1 avremo 240 milioni, se è di 400 milioni l'avremo di 320, perché abbiamo l'80%. Nella NewCo 2, se è di 300 avremo 100 milioni, se è di 400 avremo 120 milioni. Queste sono le certezze, ma per arrivare al cash out totale abbiamo bisogno di sapere come chiude Italease, e io non glielo so dire. Oggi, leggendo il comunicato di Italease, arriveremmo a un patrimonio netto che, tradotto in euro, sarebbe più o meno vicino ai 2 euro. Noi abbiamo fatto un'offerta ad 1,50 euro, perché appunto dobbiamo verificare quella che è la sostanza. Abbiamo offerto un prezzo che riteniamo sia un prezzo congruo, visto l'andamento del titolo nel mercato, che ha ripreso recentemente esclusivamente dal momento in cui ci sono stati i rumor sul nostro intervento, perché viaggiava fino a poco tempo fa a 1 euro, 1,01 euro. Abbiamo fatto 1,50 euro, dando anche un premio sull'ultimo prezzo di mercato che ci è sembrato corretto, utile per poter raggiungere poi l'obiettivo che ci siamo posti, che alla fine della fiera è quello del delisting. Allora, Alberto Grassani, in una battuta, che Italease oggi guadagni tanto in borsa, si sta avvicinando al livello offerto, 1,50 euro, ha guadagnato appunto l'11%. Il ragionamento che fa il mercato invece sul Banco Popolare, che è il peggior titolo, -10,1%, e tecnicamente qual è la soglia di adesione dell'OPA, chiedono molti ascoltatori che immagino abbiano titoli Italease. Ma dunque, ovviamente, se voi pensate che oggi Saviotti ha detto non voglio immaginare che cosa sarebbe successo a Italease se non fossimo intervenuti, beh, voi potete già immaginarvi che una banca che si perde circa 800 milioni già previsti sui crediti e 250 già nella terza trimestrale, e presumibilmente ci possono essere altre perdite insite in questo portafoglio crediti molto oneroso, voi potete immaginare che adesso parte di queste difficoltà verranno accollate dal Banco Popolare, certo, che avrà l'80% della bad bank in cui verranno scorporati tutti questi crediti problematici. Quindi diciamo che le sofferenze che fino a venerdì erano sulle spalle della Banca Italease, da domani se le cariche al Banco Popolare, ovviamente sono per sulle spalle del Banco Popolare. Il livello dell'OPA, cioè, molti chiedono, ma se io volessi non consegnare, io lo sconsiglio, perché i titoli, è vero, cioè, sono crollati da 20-25 euro a 1 euro, però 1,50 euro è un 50% in più a spanne dei livelli toccati dal titolo Italease nelle settimane scorse. Allora, adesso è evidente che dopo le perdite che verranno annunciate con i conti del 2008 si potrà fare un calcolo di quali saranno le necessità di aumento di capitale di Italease. È chiaro che il titolo Banca Italease è arrivato a quotare circa 1 euro nelle settimane passate, e in questo momento viene offerto 1,5 euro. 1,5 euro non è il patrimonio netto che viene calcolato in 2 euro. Però diciamo che la banca nella sostanza ha avuto grandi difficoltà, è difficile in questo momento consigliare ai risparmiatori. Di tenere è evidente che comunque il Banco Popolare diventerà il principale azionista di questa società, perché tutte le altre componenti dell'azionariato presenti nel patto di sindacato hanno già aderito all'offerta che verrà presentata dal Banco Popolare, 1,5 euro. Quindi chi resterà come azionista di minoranza e ovviamente conterà abbastanza, relativamente poco, in un capitale molto, molto concentrato. Certo. Va bene, ognuno comunque faccia la sua scelta. Grazie ad Alberto Grassani del Sole 24 Ore. Volevamo farvi sentire anche alcune dichiarazioni in tema di stipendi dei manager definite inaccettabili da Lawrence Summers, il consigliere economico di Barack Obama, e anche alcune dichiarazioni di Giovanni Perissinotto, che è l'amministratore delegato delle Generali, sul fatto che chi ha sbagliato deve pagare. Le rimando a domani, tanto c'è un'altra puntata di Focus Economia dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata.